E finalmente episodio 6. Finalmente siamo di nuovo, anzi sono di nuovo dietro al microfono dopo tipo credo 2 mesi e anche di più, ed è stranissimo perché non lo so, è come se stessi rifacendo il primo episodio, cioè è una bella e anche brutta sensazione perché un po' le parole mi si bloccano, no? Comunque finalmente siamo all'episodio numero 6 di Nerdcast. Nonostante comunque sia un podcast che esiste più o meno da 6-7 mesi, perché solo episodio numero 6? Perché ovviamente per 2 mesi non ho fatto niente, cioè in ambito proprio di podcasting non ho fatto niente, ma non perché non mi andasse, ma perché insomma ci sono state varie complicazioni di vario genere di cui... forse è meglio parlare dopo, però una cosa la dico adesso. Una delle più grandi complicazioni che poi mi è stata fatta notare praticamente da tutti quelli che hanno commentato sul blog / sito, e appunto questo problema era il microfono, ma proprio per questo ho fatto varie modifiche, ho messo, ho modificato i vari microfoni che avevo, ne avevo tipo 5 o 6. Alla fine ho scoperto che quello che ho utilizzato per tipo i primi 5 episodi era il più schifoso. Ho fatto bene, ecco la sigla è finita. Ho fatto benissimo, appunto, sono stato molto orgoglioso di non essermene accorto prima. Comunque adesso vi parlo da un microfono, da un bellissimo microfono USB che avevo, che utilizzavo per la PS3 da tipo 3 anni e non mi è venuto in mente di utilizzarlo per il podcast. Proprio... fatto benissimo, insomma, utilizzarlo, perché io credo che si senta molto meglio rispetto alle altre volte. Comunque è ovvio, lo dico già adesso, che è ovvio che ci saranno altre complicazioni proprio all'interno dell'episodio numero 6 di questo episodio, perché insomma un episodio di Nerdcast senza complicazioni non è un vero episodio di Nerdcast, ecco. È proprio questo quello che vogliono i fans, è questo quello che gli daremo, che gli darò io, essendo io l'unico conduttore dell'episodio. Quindi io dovrei fare vari saluti a tantissimi podcaster, ma credo che me li riservo alla fine, proprio come fanno tutti i podcaster. Insomma, i podcaster come consuetudine fanno i saluti alla fine invece che all'inizio, Ovviamente sto scherzando, perché di solito i saluti si fanno saluti e ringraziamenti si fanno all'inizio del podcast, non alla fine, ma io, siccome appunto questo è un podcast poco serio, poco organizzato, lo farò proprio alla fine. Adesso che ho finito di prendermi in giro, direi che possiamo iniziare proprio con il podcast vero e proprio. Cercherò in qualche modo di farmi scusare per... non aver registrato un episodio da almeno 2 mesi, passando diciamo molta musica, molta buona musica di artisti tutti presi da Jamendo, insomma come lo volete dire, .com o .fr. E i primi artisti che sono andato a scovare sono italiani, si chiamano Alchimia. Questo è tratto dal loro album Alchimia 4, è una canzone abbastanza rilassante, almeno all'inizio, si chiama Aurora degli Alchimia. chiuso, sono sempre qui, solo con quest'aria fredda, nuda e silenziosa. Sento intorno a me ma te freddo che si sta fermando e non respira. Alchimia con Aurora, e come avete appunto sentito all'inizio della canzone c'erano stati i primi problemi, appunto perché la canzone non partiva, quindi c'erano stati tipo 5-6 secondi di pausa, di silenzio assoluto in cui non sapevo se riaccendere il microfono e dire qualcosa, scherzarci su, insomma varie cose, ma questo è Nerdcast, come ho detto prima, e questo è appunto. Allora, di cosa parliamo oggi per quanto riguarda il mondo videoludico? Volevo parlarvi di un argomento in particolare, ma ci arriverò parlando di un'altra cosa di cui volevo la quale appunto volevo trattare nell'episodio 5, ma poi non l'ho fatto per vari motivi. Parliamo di un sito, il sito è metacritic.com. In realtà proprio Metacritic è più che un sito, è una sorta di non direi neanche associazione, ma insomma vabbè, diciamo è un sito che si occupa di dare un voto globale a ciò che concerne un po' il mondo non solo videoludico ma anche del cinema, della musica. Insomma, ci sono varie recensioni di praticamente tutti gli album, i giochi, i film, i DVD e tutto quanto, anche di serie TV e diciamo tutto ciò che può essere considerato come intrattenimento, no? E praticamente si incarica di dare dei voti complessivi da 1 a 100 a ognuno di questi oggetti, appunto, che siano album, che siano giochi, che siano video o film. E perché ve ne parlo? Perché, insomma, in Italia, comunque in Europa, non è molto famoso come lo è invece in America, appunto, dove è stato creato da due ragazzi, poiché, appunto, se mai doveste andare in America, comunque se ci siete già stati, probabilmente quando andrete in un negozio di elettronica, comunque un negozio di intrattenimento dove potete trovare film, album, videogiochi, eccetera, diciamo, sarà probabile che comunque vediate vicino proprio all'etichetta di quel particolare film, del nome di quel particolare film o album, eccetera, appunto questo Metacritic, cioè che più o meno ha un logo a forma di M, cioè il logo è proprio una M con un cerchio giallo. E appunto vicino a questo Metacritic probabilmente anche un numero appunto da 1 a 100, che è appunto il voto dato da Metacritic a quel particolare oggetto. Dunque, questo appunto per informare. Metacritic è perciò una sorta di datore di voti a forme di intrattenimento così famoso in America che diciamo, le recensioni di Metacritic vengono pubblicate anche sul Wall Street Journal, sul New York Times e per gli utenti di Xbox. Comunque questo mi pare soltanto quelli. Gli utenti Xbox soltanto americani, adesso non vorrei dire una cavolata, però anche per gli utenti Xbox americani c'è un Metacritic, cioè viene utilizzato questo Metacritic proprio da Microsoft per i giochi scaricabili. Dunque c'è il gioco e a fianco appunto il voto di Metacritic. Ovviamente, appunto, siccome viene utilizzato, le recensioni di Metacritic vengono utilizzate da molte, da vari, insomma, da vari strumenti di informazione, come abbiamo detto, viene utilizzato anche da una piattaforma di distribuzione videoludica che si chiama Steam. E appunto Steam è l'argomento principale di cui voglio parlare. Steam, come abbiamo detto, appunto, è diciamo, è una piattaforma di distribuzione videoludica. Cosa vuol dire? Cioè, è un sistema di distribuzione digitale, proprio detto diciamo, all'inglese downloadable, di videogiochi. Soprattutto i videogiochi, almeno per adesso. Ovvero, più che altro, Steam è un programma, più generalmente, un programma che appena installato e con una connessione, appunto, ad internet, permette di scaricare, oltre alle varie demo, queste gratis appunto, oltre alle varie demo, anche i giochi veri e propri. Questi giochi, che sono ovviamente giochi per di più, anzi giochi soltanto per PC, essendo Steam una piattaforma soltanto per PC almeno per il momento, appunto questi giochi vengono scaricati da Steam e il più delle volte Steam fa dei prezzi, insomma, offre dei prezzi per questi giochi ovviamente più bassi rispetto al gioco vero e proprio trovato magari in un negozio, in un GameStop, in un Media World, eccetera. Questo ovviamente perché questi sconti fanno parte proprio del mercato, cioè è ovvio che Steam metta degli sconti ai giochi. Per esempio, posso dire mi ricordo un Grand Theft Auto 4, io l'ho comprato da Steam, non l'ho comprato da GameStop, per dire, perché Steam ovviamente aveva, mi pare, quei 15 euro in meno che comunque io potevo utilizzare per qualsiasi altra cosa, no? Quindi è ovvio che Steam sia molto più conveniente che un qualsiasi altro negozio proprio materiale, ecco. In più, oltre ad essere conveniente, Steam è anche utile per i veri e propri videogiocatori che si ritengono hardcore, perché offre delle funzionalità online non indifferenti. Per esempio, se vi sono delle patch no, degli aggiornamenti, degli upgrade, diciamo, disponibili per un certo gioco, e Steam che avverte prima di proprio di entrare nel gioco che esistono questi upgrade appena usciti, e appunto ci chiede se vogliamo fare l'upgrade, lo farà Steam stesso senza andare a scaricare in un certo senso la patch da soli. Oppure un altro sistema online, proprio la community di Steam è, diciamo, potrei dire anche la più famosa, insomma, potremmo dire la più famosa community online videoludica che esiste al momento. Difatti Steam, avendo proprio, essendo proprio stata sviluppata da Valve, va bene, parliamo dopo, insomma, di Valve, è una casa produttrice famosa soprattutto per aver prodotto Half-Life, Team Fortress, eccetera, e sì, anche Counter-Strike. Appunto, Valve, avendo creato Steam, ha creato anche una community molto ben organizzata, soprattutto online, poiché mentre magari stiamo giocando, mentre io sto giocando a Counter-Strike, se ho un amico che in quel momento sta giocando sempre su Steam ad un altro gioco, che ne so, Team Fortress, mi esce scritto proprio sullo schermo che appunto questo mio amico sta giocando a Team Fortress. Nello stesso momento io, vedendo questo mio amico che gioca a Team Fortress, potrei in effetti entrare nella sua partita, cioè essere invitato, oppure in un certo senso risalire un po' alla partita, al server in cui sta giocando, e giocare con lui. Dunque, è ovvio che proprio la community online videoludica di Steam è probabilmente la più utilizzata, perché è proprio quella che funziona meglio per ciò che riguarda i giochi, ovviamente, che Steam dà. Steam stesso, proprio come piattaforma, ha, mi pare, un 480 o 500 giochi disponibili. Come pagamenti utilizza quello che secondo me è il pagamento più comodo e anche più rivoluzionario degli ultimi tempi, ovvero quello della PayPal, perché basta mettere giusto il codice e il gioco viene downloadato velocemente senza difficoltà, oppure si può fare anche con carta di credito e anche con debito. C'è un'altra cosa anche molto importante di Steam, che comunque è abbastanza recente. È una novità che praticamente risale a 2 mesi fa, diciamo il 3 novembre, poiché Valve, appunto la casa produttrice di Steam, ha creato questo servizio di archiviazione di dati che viene riconosciuto con il nome di Steam Cloud, appunto nuvola di vapore. Che cos'è questo Steam Cloud? In realtà lo Steam Cloud, appunto, come vi ho detto, questa archiviazione di dati, dà la possibilità al videogiocatore, all'utente, di poter archiviare i dati relativi ad un gioco in una, diciamo, in una piattaforma virtuale, nel senso che se io ho i dati di un particolare gioco di Steam sul mio computer principale, posso far sì con Steam Cloud che questi dati possano essere trasferiti ad un altro computer per farmici giocare, nel senso che se io dovessi un giorno cambiare computer, no? Oppure trovarmi a giocare ad un altro computer che non sia il mio, ad un gioco di cui ho vari salvataggi, posso tramite Steam Cloud avere praticamente quei salvataggi sull'altro computer. Praticamente posso giocare con i miei dati su qualunque computer del mondo, comunque quasi qualunque computer del mondo, non proprio tutti quanti, perché ovviamente bisogna vedere varie diversità tecniche di ogni computer. E ovviamente questo io credo personalmente che sia un servizio pazzesco, stupendo, perché insomma a parte la perdita di dati quando si è in una parte abbastanza, diciamo, una parte abbastanza faticata, no, del gioco, è abbastanza brutto perdere i dati e poi non ritrovarli più e dover rifare di nuovo tutto il gioco da capo. Insomma, è capitato credo a quasi tutti i videogiocatori e quindi anche a me, so quanto è terribile, insomma, una cosa del genere. Dunque, ovviamente, tramite Steam Cloud, che io ho già utilizzato per esempio per Left 4 Dead, è molto utile perché, insomma, si può giocare da qualunque tipo di postazione del mondo con i propri dati dei giochi. Dopo aver fatto questo mix di parole in cui non ci ho capito niente praticamente neanch'io, facciamo così, mandiamo un'altra bella canzone, così ci riprendiamo la super spiegazione di Steam che ho cercato di comprimere in meno minuti possibili, perché insomma di Steam e delle sue particolarità si potrebbe parlare tantissimo. Però prima di andare alla canzone, anzi, vorrei parlarvi di un altro piccolo spazio, un'altra piccola ma molto piccola novità del podcast, cioè ogni puntata parlerò di una casa produttrice di videoludica, diciamo di videogiochi, partendo proprio dalla prima lettera dell'alfabeto, della A. La prima casa videoludica di cui vorrei parlarvi è Activision. Activision è una casa statunitense, fu fondata nel 1979, è una delle case produttrici ancora in vita più vecchie, appunto, tanto che, insomma, uno dei suoi primi giochi fu proprio sull'Atari 2600. Adesso è una casa di produzione, insomma, un po' smistata per tutte. Per tutte le console, anche per il PC, insomma, produce per PlayStation, Xbox, PC, anche Wii. E soprattutto un evento molto particolare ed importante che ha rivestito proprio la casa Activision è successo 2 anni fa. Nel 2007, quando Activision si è fusa con la Vivendi Games, la quale Vivendi Games aveva tra i suoi brand anche Blizzard, che, per chi non lo sapesse, insomma, Blizzard è la casa produttrice di World of Warcraft. Dunque, questa fusione di Activision e Blizzard ha creato proprio l'Activision Blizzard. Nonostante questo, comunque, Activision continua a produrre i suoi giochi normalmente col logo di Activision e basta. Ciò che ha reso famoso Activision, ciò che comunque le ha permesso di andare avanti negli anni senza incappare nel fallimento, come invece magari è successo a molte altre case produttrici, è appunto una serie di giochi di grande successo, uno tra i quali proprio recentissimo, uno dei più giocati online, che è Call of Duty Modern Warfare 2. In generale, diciamo che Activision ha proprio prodotto tutta la serie di Call of Duty, ha finanziato più che altro tutta la serie di Call of Duty, dall'uno all'ultimo, appunto. Oltre ai vari, per esempio, Doom 3, tutta la serie di Quake, Prototype di questo stesso anno, del 2009, e oltre ad avere introdotto anche la serie di Tony Hawk's Pro Skater nel lontano 99, ha anche prodotto Vampire The Masquerade, sia Bloodlines che Redemption, che sono due giochi di ruolo che prima che fosse creato World of Warcraft, prima che fosse in un certo senso introdotto al pubblico lo stesso World of Warcraft, era un RPG molto in voga, insomma, molto bello, a cui anch'io ho giocato, insomma, ma essendo che in quel periodo avevo già scoperto il bellissimo World of Warcraft, l'ho lasciato abbastanza perdere, quindi sono andato avanti. Ah, ecco, un'altra cosa prima ancora della canzone, proprio per farvi vedere l'organizzazione di questo podcast, come è stato organizzato benissimo. Ritornerei 2 secondi su Steam, proprio perché adesso ho aperto il mio Steam. E una cosa di cui mi sono scordato di parlare è appunto le offerte che Steam fa di tanto in tanto, come per esempio in questi giorni di festa Steam ha fatto delle offerte pazzesche, soprattutto la vigilia di Natale. Mi ricordo che Grand Theft Auto 4, GTA 4 era soli 4, no, soli 7 euro da tipo un 38 euro, mentre i primi che mi vengono adesso aprendo Steam sono per esempio Company of Heroes a 8,74 euro invece di 34, Garry's Mod a 5,99 invece che 7,99, Counter Strike a 5,99, il 2 anche a 3,99 qualche giorno fa, e potrei continuare. Insomma, Steam per i videogiocatori è davvero pazzesco, è davvero una delizia, e soprattutto anche la stessa Valve, appunto casa produttrice di Counter Strike, Half-Life, Team Fortress, Portal, è famosa proprio per essere una casa produttrice che diciamo ha un occhio di riguardo per i videogiocatori, soprattutto per i videogiocatori del PC. Ma siccome di Valve dovremmo parlarne tantissimo, lasciamo che insomma l'argomento Valve venga trasportato nel prossimo episodio di Nerdcast, e andiamo con la prossima canzone, anche questa ovviamente da Giamendo, giamendo.com.fr. Questi sono i Bread Sacks con Dropping Out of School. questi erano i Brad Sachs con Dropping Out of School. Credevo che dopo due mesi di assenza sarebbe stato molto più facile tornare al microfono. Ovviamente mi sbagliavo, insomma nessuno lo penserebbe, perché mi rendo conto che è abbastanza difficile. Cioè mi sta riuscendo abbastanza difficile cercare di non avere tempi morti, no? Mentre parlo, quindi è abbastanza seccante anche questo. Però insomma, questa è la punizione per non aver fatto niente per due mesi e ad aver giocato a Dungeons and Dragons e a World of Warcraft senza fregarsene proprio del podcast. In realtà no, in realtà per due mesi ho avuto molto da fare, insomma, studio e tutto quanto. Ho ascoltato nuovi podcast, per un certo periodo ho avuto anche in mente di proprio cancellare tutto quanto e finirla col podcast, perché insomma avevo fin troppo da fare, non potevo dedicarmici troppo. Però oltre a questo ho anche vari problemi con il sito stesso, perché aveva cancellato da iTunes il feed, non riuscivo più a trovare il mio podcast su iTunes, quindi ho dovuto cancellarlo, ho dovuto rifarlo. E insomma ci ho messo un bel po', con un po' anche la noia che mi provocava a fare tutto questo di nuovo, con il fatto che insomma il microfono non andava bene, il fatto che comunque avevo da fare, insomma tutto faceva presagire che sarebbe finita lì, ma in realtà continua, anzi adesso sono molto più forte di prima, tra virgolette, no? E sono deciso a continuare il podcast più che posso, quando posso ovviamente. Dunque, per quanto riguarda feed, insomma il nuovo indirizzo del blog, anzi il nuovo indirizzo lo do adesso, il nuovo indirizzo del blog, perché non è più quello vecchio ma è uno nuovo, è www.nerdpodcast, ovviamente tutto attaccato, .blogspot.com, dove ho rimesso le prime 5 puntate e metterò appunto anche questa. Lo troverete abbastanza scialbo all'inizio perché lo devo un po' modernizzare, insomma ho fatto tutto abbastanza velocemente, adesso lo modifico. E quindi questo è abbastanza importante. Ricordatevi, non è più quello di nerdcast.podomatic.com, ma è nerdpodcast.blogspot.com. Quello di Podomatic ormai è defunto, è completamente finito, insomma. Nonostante comunque questa sesta puntata là, però anche su Podomatic, comunque del servizio Podomatic mi sono davvero seccato, mi sono rotto le scatole per non utilizzare insomma parole più scorrili, ecco, perché insomma sono stati due mesi davvero di pena contro Podomatic, ma adesso comunque tutto è a posto. Un'altra cosa anche molto importante, ricordatevi anche di andare ad abbonarvi sul nuovo, sulla nuova pagina di iTunes. Mi dispiace dirlo perché lo so che è seccantissimo andare sull'iTunes Store, aspettare che si carichi, andare a cercare i podcast eccetera, però è un favore questo, perché sul vecchio feed, cioè sul feed su cui comunque apperò anche questa sesta puntata, non metterò più niente, insomma non metterò più episodi, lo lascerò perché ormai è il feed relativo all'altro blog, mentre adesso col nuovo blog, che appunto ho detto prima, c'è un nuovo feed e ovviamente se volete continuare ad ascoltare Nerdcast, oltre ad andare a downloadare proprio le puntate su nerdpodcast.blogspot.com, potete abbonarvi al feed di iTunes andando a cercare Nerd Podcast su iTunes, e dovrebbe uscirvi praticamente sempre lo stesso logo azzurro con la scritta I Love Nerd eccetera. Dunque fatelo, perché insomma sul vecchio feed non troverete più niente oltre a questa sesta puntata. Dunque, fatte queste belle delucidazioni proprio per scusarmi, no? Ci volevano. Andiamo avanti, parliamo di Giappone in questo momento. Quello di cui mi sono reso conto è che in effetti non ho dato delle notizie, nelle prime 5 puntate non ho dato delle notizie fondamentali del Giappone, insomma. Prima cosa di tutto non ho detto che in Giappone vi sono, o forse l'ho detto, insomma non mi ricordo, ma lo diciamo di nuovo, mi serve per introdurre l'argomento. In Giappone vi sono 128 milioni di persone, di abitanti, che non siano, non devono essere tutti quanti giapponesi, ovviamente, ma sono 128 milioni di persone. Questo significa che ovviamente in una isoletta molto piccola, che è ovviamente più piccola di una penisola come l'Italia, che invece ha più o meno 60 milioni di persone, è molto difficile smistare tutte queste persone, perché insomma è quasi il doppio, 128 milioni di persone rispetto all'Italia, e ovviamente il Giappone è più piccolo rispetto all'Italia. Dunque tutte queste persone ovviamente creano varie difficoltà proprio per le infrastrutture giapponesi. Oppure creano anche dei modelli di business, appunto. Uno di questi modelli di business, uno dei più gettonati, uno dei più famosi, che è presente soltanto in Giappone, ovviamente, è l'hotel a capsule, oppure capsule hotel. L'hotel a capsule è famosissimo del Giappone, è quasi una sorta di monumento, cioè una caratteristica vera e propria, no? Sono appunto, come dice il nome, un hotel, cioè sono degli hotel che invece di dare delle stanze vere e proprie, danno dei loculi, ecco, diciamo sì, degli spazietti proprio a misura d'uomo, veri e propri, no? Nei quali, diciamo, i lavoratori, coloro che lavorano fino a tardi, soprattutto gli uomini di business giapponesi, vanno a dormire. Per andarle a vedere, insomma, basta scrivere capsule hotel e escono le immagini. Sembrano, per esempio, cioè, a me sembrano dei frigoriferi, no? A due scompartimenti, e all'interno di ogni scompartimento c'è appunto questo letto che, da quel che si dice, comunque è un letto abbastanza comodo, comunque confortevole, non, pur essendo piccolo, comunque è abbastanza confortevole. All'interno dei loculi comunque non mancano, per esempio, l'aria condizionata, non mancano varie cose come, per esempio, la TV, che è proprio sopra, appena si poggia la testa, si alza si alzano gli occhi al cielo, praticamente la TV è là. E soprattutto il motivo per cui vengono utilizzati tantissimo questi capsule hotel è il fatto che comunque siano molto economici. Appunto, per ogni notte si arriva da un minimo di 15, da un minimo di diciamo 25, anzi no, scusate, perché ho detto 15, ecco, mi stavo confondendo, un minimo di 21 euro ad un massimo di 29 euro a notte, il che ovviamente è molto conveniente, però ovviamente se non si è giapponesi è difficile un po' a rendersi all'idea di dover entrare all'interno di questi loculi, non so neanche quanto spaziosi, aspettate un attimo che lo trovo. Sì, è infatti 2 metri di lunghezza per 1 metro di larghezza. All'interno di questi loculi è difficile, in effetti, rendersi all'idea di dover dormire là per una notte. Sembra, come molti, insomma, lo ritengo una sorta di camera mortuaria, no? Cioè, quelle celle frigorifere in cui vengono tenuti i morti per non farli decomporre. Insomma, se si prende in considerazione queste idee, è un po' difficile avvicinarsi proprio ai capsule hotel. Però, personalmente parlando, io credo che sia un'esperienza da fare, insomma, andare a dormire proprio all'interno di una capsula, no? Sembra quasi una struttura spaziale, una cosa del genere. Guardarsi la televisione all'interno di questi loculetti di 2 metri, eccetera, no? Secondo me è abbastanza interessante, ma poi io sono abbastanza pazzo, quindi non ascoltatemi se proprio non se tipo soffrite di claustrofobia, eccetera. Però appunto sono degli hotel che si trovano soltanto in Giappone. E comunque da un po' di anni a questa parte anche la Cina o la Corea stanno adottando questi modi di utilizzare questi hotel, che comunque a parte tutto sono sicuramente i più convenienti e anche i più comodi in un certo senso, ma comodi non lo so in realtà perché non ci sono mai stato, però sono sicuramente i più convenienti. Un'altra cosa, un altro aspetto molto simpatico e anche interessante, cioè comunque famoso del Giappone, sono i buttadentro, i cosiddetti buttadentro. Come abbiamo detto, appunto, 128 milioni di persone smistate in un'isoletta, è molto difficile che trovino tutti noi il loro posto. Quindi è ovvio che quando si trova una metropolitana, si va a prendere una metropolitana, soprattutto nelle grandi città, Tokyo, Kyoto, Osaka, eccetera, è ovvio che è difficile proprio entrare tutti quanti all'interno della metropolitana. Proprio per questo vi è una soluzione in Giappone, e sono i famosi butta dentro. Questi butta dentro sono una sorta di poliziotti, cioè sono degli uomini, non sono delle macchine, sono degli uomini che hanno il compito di spingere praticamente tutti i passeggeri della metropolitana all'interno della metropolitana per far sì che le porte si chiudano. Lo so che può sembrare abbastanza ridicolo o comunque strano, però è così, insomma, ci sono questi buttadentro che proprio spingono le persone all'interno delle metropolitane o dei treni che siano per far sì che ci stiano tutti e per far chiudere queste porte. Questo accadde per un motivo, qualche anno fa, ovviamente, quando la densità demografica giapponese iniziò ad aumentare, è ovvio che fu sempre più difficile proprio per le metropolitane, per i guidatori, no? Per gli autisti, e chiudere proprio le porte in faccia a tutti i passeggeri. Oppure era facile che magari una metropolitana non partisse perché magari le porte non si chiudevano perché ostruite da due o tre giapponesi. Insomma, questo era abbastanza strano. È abbastanza strano perché accade ancora oggi. Soltanto che oggi appunto ci sono questi buttadentro con i loro guantini bianchi che insomma devono avere anche una buona forza per buttare dentro, per spingere dentro tutti i passeggeri all'interno delle metropolitane. Ovviamente questa fa parte di una di quelle curiosità, no? Di quelle tradizioni, ma neanche tanto uniche del Giappone. Ed è questo che fa il Giappone una grandissima isola, una grandissima nazione, nonostante comunque molte persone abbiano vari, diciamo, come dire, diciamo, vari fraintendimenti delle tradizioni proprio giapponesi, anche preconcetti, più che altro pregiudizi delle tradizioni giapponesi. Per esempio, l'altra volta sono andato a mangiare ad un buonissimo ristorante giapponese con dei miei amici che però, diciamo, ho dovuto faticare per convincere a venire con me perché insomma avevano questi pregiudizi proprio sulla popolazione giapponese, sul cibo giapponese, poi soprattutto anche su quello cinese, eccetera. E un altro scopo di questo podcast è quello di convincere tutti quelli che hanno dei pregiudizi, no? Dei pregiudizi sulla cultura giapponese a non averne, perché insomma il Giappone è una nazione come altre, insomma, ha delle tradizioni come non ne ha rispetto a un'altra nazione. Quindi io vi dico, andate in Giappone, restateci come ci resterò io, perché insomma, io spero di andarci a lavorare, di viverci, non perché odi l'Italia, no, questo no, perché insomma è ovvio che essendoci cresciuto, però il Giappone mi attira in particolar modo e soprattutto anche le ragazze giapponesi, gnam gnam. Vabbè, lasciamo perdere questo aspetto abbastanza vergognoso. Vediamo qua, è così. Prima di lanciare un'altra canzone, oggi puntata abbastanza ridotta per quanto riguarda proprio la lunghezza delle puntate di Nerdcast, prima di lanciare un'altra canzone, ricordatevi una cosa molto importante, una cosa che ho imparato al ristorante giapponese, che il sashimi è una delicatezza della cucina giapponese, che consiste principalmente in salmone o in calamari o in tonno o in polpo, È accompagnata da una salsa in cui viene appunto, si può intingere questo sashimi e si può mangiare. Dunque, quando sentirete parlare di sashimi o sentirete parlare o avrete davanti un sashimi, non abbiate paura di mangiarlo perché è ovviamente commestibile. Stessa cosa non può essere detta per il wasabi, che invece è una salsa molto piccante. E per quanto purificante sia, come abbiamo detto appunto come ho detto appunto nell'ultima puntata, nella scorsa puntata di Nerdcast, per quanto purificante sia, comunque quasi cancerogena se presa senza accompagnamento. Dunque, detto questo, che comunque è salvaguardia, quindi fa sempre bene sapere le opzioni culinarie del Giappone, mandiamo un'altra canzone. Questa canzone è invece degli MMO. Si chiama Textual Healing, sempre questi da jamendo.com o.it o.fr, no, non sono sicuro del.it, però è comunque Jamendo. Scrivete Jamendo, lo trovate sicuramente. E appunto MMO con Textual Healing. Traffic hell with one eye on the road. It's all Mau con Textual Healing, li ho scelti anche per il nome, molto bello, molto videoludico, MMO, di cui magari parleremo un'altra volta, perché anche qua bisognerebbe fare un discorsone lunghissimo. Comunque adesso è un altro momento, è il momento di un altro momento, abbastanza recente di Nerdcast, comunque anche Nerdcast stesso è recente, e si tratta delle parodie. Le parodie come abbiamo fatto nell'episodio 4, dove c'era la parodia, se non sbaglio, di... non mi ricordo neanche le mie... di Zelda. Nell'episodio 5 c'era la parodia di Duke Nukem, questa volta la parodia è di Metroid. Se parte, sì. Metroid. Anche detto Metroid Prime, per quei poverini che lo hanno giocato solo su GameCube. Metroid si può definire come un puzzle game d'azione in prima persona, con le armi e con un protagonista principale sia uomo che donna. Il suo nome infatti è Samus Aran, chiara abbreviazione dei nomi Samuele e Arianna, fatta apposta da Nintendo per non destare sospetti tra i fan e non essere denunciati dalle associazioni degli uomini donna. In ogni caso, recenti studi fatti da alcuni nerd hanno stabilito che il protagonista è per il 70% più donna che uomo, per la gioia dei videogiocatori che odiano la principessa di Mario Bros. Samus nacque con sembianze umane in un pianeta popolato solo da uccelli a tre mani, i quali si interrogarono a lungo sul perché un umano si trovasse sul loro pianeta. In seguito si risposero che anche Samus era un uccello ma senza penne. Così gli costruirono una cella frigorifera di incubazione semovibile, detta anche tuta, che la povera Samus avrebbe dovuto indossare per sempre, anche quando andava al bagno. Il che si rivelava piuttosto difficile. Così gli uccelli a tre mani le costruirono un braccio con un grande buco, dal quale Samus avrebbe potuto esercitare i suoi bisogni facendoli fuoriuscire dallo stesso buco. Più tardi si rese conto che il braccio sarebbe servito anche per ammazzare le piovre volanti. Nel primo episodio, Samus viene inviata dalla Federazione Inter Super Mega Ultra Galattica sul pianeta degli Zebedei, i quali producevano scarpe contraffatte e piovre giganti puzzolenti. Così Samus uccise il cervello madre, comandante del pianeta degli Zebedei, e solo dopo averlo fatto saltare in aria si rese conto che il cervello madre era in realtà una grande polpetta ripiena di sugo, anche questo contraffatto. Qualche anno dopo, sempre sullo stesso pianeta, Samus trovò un uovo di piovra gigante puzzolente, il quale venne risparmiato dal cannone sfintere e portato in un laboratorio della Confederazione Inter Super Mega Ultra Galattica. Solo quando vide un enorme drago gigante puzzolente scappare con quell'uovo, Samus capì di aver fatto una cazzata inter super mega ultra galattica. Infatti, nel terzo episodio della saga, Samus si ritroverà di nuovo sul pianeta degli Zebedei contro il cervello madre polpetta che aveva già distrutto. Con la sola differenza che adesso il ripieno del cervello madre polpetta era letame. Dopo aver finito anche il terzo episodio, Samus si ritirò a vita privata per qualche anno. Finché un giorno non le si presentò alla porta uno strano idraulico col cappello rosso e dei baffoni, il quale la invitò a partecipare al torneo di Super Smash Bros. Dopo averci pensato qualche secondo, Samus uccise l'idraulico, credendo che fosse un altro sopravvissuto del pianeta degli Zebedei. Per qualche ragione mai compresa a pieno, nei primi tre episodi della saga, Samus ha il cannone al braccio destro, mentre in quelli 3D lo ha al braccio sinistro. Probabilmente ciò è dovuto al fatto che Mega Man vinse la causa contro Samus per il diritto ad avere un cannone al posto del braccio, che funzionasse anche come espletore di bisogni privati. L'ultimo capitolo della saga di Metroid è uscito per Wii, con il sottotitolo di Corruzione. Questo sottotitolo così strano è dovuto al fatto che probabilmente Samus si fece corrompere per fare un altro gioco pieno di uccelli a tre mani e piovre giganti puzzolenti. Proprio per questo Samus prenderà il posto del professor Layton nel prossimo capitolo del gioco, risolvendo gli enigmi e diventando così l'eroe del DS. Ci siamo? Sì, finita, finita. Ecco, c'è stata un'esplosione di diversi suoni in questa mia parodia, che non ho capito bene cosa è successo. Forse avete sentito anche suoni relativi non proprio a Metroid, quindi lasciamo perdere. E comunque questa appunto era la parodia di Metroid. Questa in sottofondo, per chi non l'avesse riconosciuta, è la theme song di Super Metroid. Che adesso rimetto a capo, anzi la spengo completamente. Ecco qui. Ecco, adesso stavo proprio vedendo questo spazio era purtroppo dato al fatto che stavo vedendo una cosa che mi ha incuriosito tantissimo e che comunque è d'obbligo dire, perché si tratta di un argomento che ho trattato, mi pare, se non sbaglio, nel primo o nel secondo episodio. Per chi di voi l'avesse ascoltato, ho parlato di Achiko, che molto brevemente era appunto questo cane che per 10 anni ha seguito il padrone mentre andava al lavoro, e per 10 anni è venuto a prenderlo, mentre appunto un giorno quest'uomo, il suo padrone, il professor Ueno, ha un infarto proprio a scuola, quindi non ritornerà mai più. Ma nonostante questo, il cane comunque è morto il padrone, ignaro appunto della morte del padrone, continuerà fino alla sua morte ad andare ogni giorno alla fermata del pullman o del tram, non mi ricordo, per in un certo senso aspettare il padrone che arriva. Questa storia, appunto la storia del cane Achiko, o Achiko, è stata trasposta in un film abbastanza vecchio, in un film giapponese, il quale film è stato di nuovo ripreso, dunque c'è un remake appunto di questo film, fatto però da un regista americano, se non sbaglio, un regista americano il quale l'ha rifatto, e appunto esce nei cinema oggi, cioè mentre sto registrando il 30 dicembre. Probabilmente voi non ascolterete questa puntata il 30 dicembre, però il 30 dicembre in Italia esce nelle sale cinematografiche il film di Achiko, col titolo appunto Achiko, e come protagonista principale, non il cane ma il professore, Richard Gere. Quindi insomma non è un film fatto così, ma è un film molto molto interessante secondo me. Io non l'ho mai visto, non ho mai visto quello giapponese, ma siccome proprio il cinema sta proprio qua sotto casa mia, non mi ci vorrà niente ad andare alle 8:30 al cinema e andarlo a vedere. Quindi adesso, avendolo scoperto, mi sa che dovrò essere abbastanza veloce nella chiusura del podcast. Mi dispiace, ma insomma prendetevela con chi fa i remake del film. Allora, un'altra cosa prima di passare insomma alla chiusura è che voglio ricordarvi subito quali sono i cambiamenti del podcast. Come ho detto prima, appunto il blog principale non è più nerdcast.podomatic.com come i primi 5 episodi, ma è www.nerdpodcast.blogspot.com, e sarà l'unico blog che utilizzerò da questo momento in poi. Cosa ancora più importante, mi raccomando, è l'abbonamento al nuovo feed su iTunes, perché non è più Nerdcast, perché andando a cercare Nerdcast non esce più questo podcast, non si sa per quale ragione, ma lasciamo perdere. E mentre bisogna scrivere Nerd Podcast, bisogna andare a scrivere Nerd Podcast e dovrebbe uscire insomma con lo stesso logo. E dopo questa self commercial, questa pubblicità fatta a me stesso, perché insomma ci vuole, se cambia direzione il podcast bisogna dirlo nel podcast, se non lo dice nessun altro, dopo aver fatto questo, siccome siamo in chiusura, nella prossima puntata, che comunque sarà abbastanza nel prossimo futuro, nella prossima settimana, dopo nel 2010, nella prima settimana del 2010, sarà la settima puntata, che più che una puntata io la vorrei fare una sorta di speciale, proprio perché ovviamente finito l'anno si fanno i premi, in un certo senso, i premi per i giochi migliori dell'anno, il gioco migliore dell'anno anche. Questi sorta di premi vengono fatti ovviamente dalle riviste, dai siti videoludici più importanti, viene fatto insomma verso l'inizio anno, dunque prima o massimo seconda settimana di gennaio. E avevo in mente proprio di fare una sorta di speciale abbastanza ridotto riguardo appunto le varie nomination, o comunque proprio i veri e propri giochi dell'anno decretati dai vari siti, o comunque anche dalle riviste più importanti, e anche un po' commentarli, anche un po' dire il mio gioco dell'anno, che non svelo adesso, ma lo svelerò appunto nella prossima puntata. E è un po' così, e mettere anche musica che comunque ci sta sempre bene. Allora, fatto questo, io adesso posso fare i saluti. Come ho detto proprio all'inizio, i saluti si fanno alla fine, solo su Nerdcast e non su nessun altro podcast. Dunque, saluti. Io in realtà dovrei salutare una miriade di persone, una bordata di persone, ringraziarle. Il fatto è che in due mesi ho ricevuto così tante notifiche, diciamo, ho avuto così tanti contatti, ho parlato con così tante persone che sinceramente non so con chi iniziare. Inizio dai podcasters, i stessi podcasters che spero che in questo momento mi stiano ascoltando. No, beh, in questo momento no, perché non sono live, non ho ancora i metodi per andare live, comunque non ho ancora abbastanza ascoltatori per andare live, ma comunque se mi state ascoltando, podcasters, spero che siate nei seguenti saluti. Allora, il primo che voglio salutare, non in ordine di importanza, e quindi non ve la prendiate, è sempre Julien, che comunque non mi ricordo se in questi due mesi io abbia parlato con Julien, ma comunque se Nerdcast esiste anche soprattutto grazie a lui, perché insomma senza le sue motivazioni, cioè senza di lui non sarei stato abbastanza motivato, no, per andare avanti. E dunque Julien, che ha anche lui un podcast che si chiama Rock House, basta scrivere Rock House, questo invece è molto famoso, anche vi consiglio di ascoltarlo. Poi Rouge di Rougecast, il quale Rouge nell'ultima puntata, anzi no, nella penultima, perché l'ultima nel momento in cui sto parlando è la 29esima, nella 28esima puntata di Rougecast ha sponsorizzato in maniera brillante questo podcast, Nerdcast, e volevo dire a Rouge appunto di non preoccuparsi se insomma ha fatto quella... non lo so, insomma, si è un pochino incartato all'inizio, però insomma la sua presentazione è stata una delle migliori che potessi mai chiedere, dunque grazie mille, grazie, perché insomma è stato bello sentirsi sponsorizzati in un altro podcast, è stato davvero bello. E poi soprattutto lui che mi prende in giro, no, non mi prende in giro, però dice che ride per il mio accento. E sì, io forse mi sono scordato di dire che parlo dal sud, sono del sud Italia, dunque è ovvio che ci siano questi accenti super marcati, no? Queste consonanti, queste T che sparano, queste D che diventano T, queste T che diventano D, non si capisce niente, lo so, e purtroppo è così, non ci posso fare niente, l'accento è... Questo rimane. Poi altri saluti, sì, sicuramente Liartes di Sproloquiocast, altro podcast molto molto interessante, uno dei miei preferiti, quindi andatelo a cercare. Un altro, per esempio, credo anche Nexus di Into the Nexus, se non sbaglio, se non ho avuto le allucinazioni, anche Nexus ha lasciato un commento sul sito di Podomatic. E poi qualcun altro, forse, boom, non lo so. Allora, dei podcasters credo ce ne siano ancora altri, un altro paio, però sinceramente non mi ricordo, quindi mi scuserete, davvero mi scuserete, perché cioè, non sono neanche andato a vedere gli ultimi commenti dell'ultimo episodio, perché avevo così tanta fretta di fare l'episodio che neanche mi è venuta voglia di andarlo a vedere. Anzi, vado a vedere adesso, mentre non lo so, mentre magari saluto qualche altro. E chi posso salutare? Boom, non lo so, credo di aver salutato. Ah no, ecco. Bene, allora scusatemi la disorganizzazione, ma insomma, il podcasting è anche questo. Sì, Nexus aveva lasciato un commento, quindi grazie Nexus. Poi ringrazio anche Nino. Nino che non credo abbia un podcast, visto che comunque non ha lasciato link, dunque grazie anche a lui. Poi altri ringraziamenti. Vediamo. No, va bene così, insomma, ce ne sarebbero tanti altri, dovrei andare nell'email, però è difficile perché, insomma, devo mettere la password, devo mettere l'account, insomma, sono cose abbastanza difficili, come voi saprete, insomma, è abbastanza seccante, richiede proprio palestra per anni di allenamento andare a mettere una password per entrare nell'email, quindi facciamo così. Non lasciamo perdere i saluti per questa volta, ristartiamo coi saluti e dalla prossima in poi vi giuro che saluterò chiunque, anche chi non lascia un commento. In un certo senso riuscirò a salutare anche voi, quindi grazie se mi state ascoltando, soprattutto grazie insomma se non mi criticate, anzi se credete che ci sia qualche diciamo, se abbia fatto qualche errore anche di pronuncia, se ritenete che il mio accento sia fastidioso, se volete uccidermi, insomma, se volete farmi anche una dichiarazione di vendetta, di morte, tutto quanto, voi ovviamente mandate le vostre mail a nerdocast@gmail.com e ogni tipo di mail, anche di minaccia di morte, appunto, sarà ben accetta. Dunque, un'ultima cosa e poi ultima canzone. Io volevo fare questo episodio prima di Natale, ma non ce l'ho fatta perché per vari motivi, insomma, non ho avuto il tempo, sì, come no. E proprio per questo io avevo preparato una canzone che aveva, diciamo, una canzone abbastanza natalizia, a sfondo natalizio, però insomma ve la ripropongo anche adesso, nonostante Natale sia finito, per celebrare un po' le feste e questo nuovo anno, nel migliore dei modi, anche con un po' con delle risate un po'. Dunque, questa è una canzone particolare, perché non è una canzone, cioè, sì, è una canzone Podsafe, ovviamente, però è stato fatto da un artista, diciamo, uno pseudo artista, dopo vi spiego perché, che si chiama Jonathan Colton, il quale ha un sito www.jonathancolton.com, che ho scoperto da poco, e fa varie canzoncine molto simpatiche, insomma, ambientate all'interno del mondo dei videogiochi. In questo senso, la canzone di Natale che adesso sto per passare, che si chiama Podsafe Christmas Song, è ambientata all'interno del mondo di World of Warcraft. E infatti, se insomma andate su YouTube e cercate Podsafe Christmas Song, la trovate. E appunto, per chi mastica anche un pochino l'inglese e per chi riuscirà a capire appunto di che cosa tratta proprio la canzone, perché è sia parlata che cantata, insomma, si può fare anche due belle risate. Noi ci troviamo dopo la canzone per i saluti finali e gli auguri. Dunque, Podsafe Christmas Song. Okay, guys, everyone ready to sing the song? Yeah, I'm ready. Great. Now, remember, it's almost Christmas, and nobody has any pod-safe Christmas music, so that's your motivation here. CeCe Chapman, you ready? Ready as I'll ever be. And Len and Nora from Jawbone, good to go? Let's do this! And Adam Curry, Skyping in from the helicopter flying somewhere above your golden palace. You all patched in there, Adam? Adam! Adam, right here! We want a pod-safe Christmas song. We want pretty good, guys, except, Adam, you sounded a little bit like you were rushing it there at the end. You know what I mean? Buddy? Whatever, dude. All right, well, I can't say I care for the attitude, but, you know, just pay attention next time. Now, the rest of you, I just wanted to go over... Adam, did you say something to me? No. Huh. That's funny, I thought I heard you say something. No, I didn't! Look, I don't want to go through this with you again. We're here to sing a song about pod-safe Christmas music, and I just want everyone to do their best, you know? I mean, can you just give me a little effort? Shut up, CeCe. Adam, just give me a little effort, okay? Adam! Jesus, what? Good job, you guys. Really. You nailed it. Nailed it. Yeah, not too shabby. Nailed it. I don't want to speak too soon, but we may have saved Christmas. And special thanks to you, Adam, for paying attention. Yeah, screw you. Yeah, I'll see you tomorrow at rehearsal. Ha ha ha. A me questa canzone fa ridere tantissimo, anche perché... proprio i quattro nani, se andate a vedere il video, ci sono questi quattro gnomi, no? Che cantano questo ritornello, è stupendo. Cioè, io la prima volta che l'ho visto mi sono messo a ridere in una maniera pazzesca. Dunque, siamo arrivati alla fine del sesto episodio di Nerdcast, questo leggendario sesto episodio che sembrava non arrivare mai. Io sono ritornato dietro al microfono, o davanti al microfono, insomma, dipende. Dopo due mesi è stata dura, ma è stato anche bello, insomma, mi sono divertito tanto a fare il podcast di nuovo. E, io, prima di lasciarvi, ovviamente, vi ricordo i contatti. I contatti, appunto, prima di tutto il contatto principale è l'email, è sempre quella, non è mai cambiata, quindi è nerdocast, con una O tra nerd e cast, comunque nerdocast@gmail.com. Ovviamente dovete mandarmi praticamente qualsiasi cosa, qualsiasi considerazione, oppure se non volete scrivere un'email andate sul nuovo blog, come ho detto prima, nerdpodcast.blogspot.com, dove appero praticamente tutte le puntate. E comunque al momento è anche abbastanza spoglio. Comunque andate lì, scrivete commenti, non c'è bisogno di registrazione, dunque non avete nessuna scusa. E detto questo, non ho più la chiusura di Final Fantasy VII. Dunque proprio al momento, proprio adesso ne ho scaricato un'altra che è altrettanto famosa, anzi credo che sia pure più famosa. Dunque con questa chiusura io vi lascio, anzi vi ricordo per l'ultima volta che dovete abbonarvi al nuovo, se volete ascoltare ancora Nerdcast, se volete seguirlo dovete abbonarvi al nuovo feed di iTunes andando a scrivere sull'iTunes Store Nerd Podcast. E detto questo, io sicuramente avrei dovuto dire qualcos'altro, ma non mi ricordo. Dunque, ci vediamo sperando per lo speciale fra una settimana oppure di più, insomma, non saprei. E buon anno, ovviamente. Buon Natale, ovviamente si intende Natale 2010, visto che Natale 2009 è passato. Buon anno 2010, tante belle cose, tanti bei giochi. E statemi bene, alla prossima. Ciao ciao.